Italia in controluce. E la seconda puntata di Italia in controluce in studio, Daniele Biacchessi. Ci sono alcuni dati certi che giungono dal primo turno delle elezioni amministrative del 6-7 maggio. Innanzitutto il dato dell'affluenza, cioè il 66,9%, quello dell'astensione oggi, il primo partito, un terzo degli italiani non si reca più alle urne. Il secondo dato certo è la durissima sconfitta del Popolo e Libertà, in calo ovunque. Angelino Alfano. Vi è stato un moltiplicarsi, cito uno studio del Sole 24 Ore dell'altro lunedì, un moltiplicarsi di candidature a sindaco civiche e un moltiplicarsi di liste civiche. Questo non è il fiorire dell'antipolitica, ma è il fiorire della voglia di partecipazione. A questa voglia di partecipazione anche i partiti tradizionali devono dare una risposta, e devono dare una risposta nella logica dell'avere capito il messaggio che è giunto dall'elettorato, e noi riteniamo di averlo compreso, e quindi ci organizzeremo di conseguenza per rispondere, sempre tenendo al centro quello che è l'interesse dei cittadini, così come abbiamo fatto nelle ultime settimane, quando abbiamo rilanciato su alcuni argomenti che crediamo siano di grande importanza per tutti i cittadini, come l'eccesso di pressione fiscale e come le tematiche che riguardano le regole per le assunzioni nell'ambito della riforma del mercato del lavoro. Poi c'è il risultato altrettanto netto del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che va al ballottaggio a Parma con il candidato del centro-sinistra e praticamente in ogni città si presenta e cattura voti sia al centro-sinistra che al centro-destra. Beppe Grillo è convinto che l'esploit del suo movimento sia soltanto all'inizio. Dunque abbiamo a Sarrego, provincia di Vicenza, il primo sindaco 5 Stelle della Terza Repubblica. Questo è un fatto epocale, finalmente i cittadini senza soldi, senza autofinanziandosi, sono andati a votare se stessi. Io vi devo ringraziare, tutti quelli che hanno lavorato a prendere le firme nei banchetti, al freddo, farle autenticare, una cosa mai vista. Qui siamo veramente a un cambiamento epocale di pensiero della politica, i cittadini votano se stessi. Stiamo avendo successo e questo è solo l'inizio. Quindi dalla rigenerazione di cui parlava il nostro Presidente della Repubblica siamo passati alla liquefazione. Si stanno liquefando la destra, il PDL, non c'è più nulla, c'è centro. Si stanno liquefando in questa diarrea politica. Finalmente i cittadini si riappropriano delle istituzioni, perché sono le istituzioni. Quindi vi pregherei anche di non dire più che non abbiamo un programma, stiamo facendo un corso per giornalisti, si va sul sito del Movimento 5 Stelle, c'è scritto programma e poi con un po' di esercizio si clicca su programma. Questo è un movimento nato nel 2009, quindi a 2 anni e mezzo. Godetevi questa felicità, tutti i cittadini, tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto, è un momento di grande felicità. Ah, un'ultima cosa, tanto per arrivare al 100% dei voti e del gradimento di tutti i cittadini italiani, dovreste continuare a offendere populista, demagogo, arruffapopoli, flauto magico, pifferaio, maiale, mi avete detto di stronzo, continuate, io vi mando un po' di magari epiteti nuovi. L'altra riflessione riguarda il centro-sinistra. Il Partito Democratico impone i suoi candidati sindaci in buona parte dei comuni, ma a Palermo il suo Ferrandelli resta certamente ancorato ben al di sotto dell'ex sindaco Leo Luca Orlando, che abbiamo sentito questa mattina a Radio 24, sostenuto dall'Italia dei Valori. Sentiamo Pierluigi Bersani. Primo, un nettissimo rafforzamento del PD e del centro-sinistra in tantissime città italiane. Secondo, uno tsunami nel centrodestra. Terzo, un'avanzata di Grillo. Questi sono i dati della realtà, che quindi, come si vede, non possono essere annegati in un indistinto dove avrebbero perso tutti. Per favore, no. Per quel che riguarda noi, se ci danno tutte le settimane un risultato così, facciamo festa. L'ultimo dato è relativo alla Lega, che è travolta dagli scandali e dalle indagini giudiziarie. Il partito di Bossi e Maroni sopravvive, tiene lutto, ma decisamente perde i voti. Anche il successo di Verona non è riferibile alla Lega, bensì al forte appeal del suo candidato sindaco Flavio Tosi, molto amato dai cittadini. Insomma, da questa tornata amministrativa escono tendenze prevedibili, come la disaffezione di un pezzo consistente dell'elettorato verso la partitocrazia, verso la politica più in generale, il dato della astensione, soprattutto il successo di Grillo, vanno in questo senso. E altre imprevedibili, come il ritorno di Leoluco Orlando a Palermo, è stato protagonista della stagione di ribellione dopo le stragi del 92 di Capace, di Via D'Amelio, e Orlando che trafigge il candidato imposto alle primarie dal PD. Certamente la Sicilia non è Palermo, Palermo non è l'Italia, ma il segnale è ormai inequivocabile. Stefano Folli, a che punto è la politica italiana dopo il voto amministrativo di ieri? Si potrebbe dire con una battuta che è un po' all'anno zero. C'è da ricostruire un sistema dei partiti. I grandi partiti escono male da questo voto. Il centrodestra, ma anche il centrosinistra non ha troppo da rallegrarsi. C'è un sistema politico da ricostruire, soprattutto in termini di credibilità. Ed è un lavoro che dovrà prendere i prossimi mesi prima della fine della legislatura, altrimenti si rischia di andare al voto in una condizione davvero drammatica, di tipo greco. Il movimento di Grillo cos'è? Un movimento di antipolitico o un movimento di politica, secondo te? Ma l'espressione antipolitica non convince mai molto. È chiaro che è una politica fatta con altri criteri, con altri obiettivi e anche forse con un altro stile morale. E si tratta di vedere se è un movimento che può mettere delle radici e soprattutto trasformarsi da movimento di protesta in movimento capace di fare delle proposte e anche delle ipotesi di governo, di buon governo delle amministrazioni locali e un domani chissà anche in parte dello Stato nazionale. Il Partito Democratico può cantare vittoria? Non credo, lo fa per ragioni di propaganda, ma mi sembra che i dati dimostrino che è un partito comunque fragile, è esposto ai venti, che dove vince in maniera più clamorosa vince con dei candidati che non sono stati espressi dallo stesso partito, che sono candidati di una società civile più larga, come Orlando e Doria. Quindi anche il Partito Democratico deve stare attento ai suoi passi e deve contribuire al rinnovamento generale della politica. La Lega invece perde voti, qualcuno parla di un vero e proprio crollo al nord. La Lega oggi è soprattutto Tosi a Verona e Tosi è un uomo che è stato l'artigiano dell'opposizione a Bossi, quindi si deve partire da questo, si deve partire da una Lega che riscopre le sue radici sul territorio. Ma il Popolo delle Libertà oggi praticamente non esiste più? Io penso che l'area moderata esiste in Italia, è vasta, è composita e oggi è priva di una rappresentanza certa. È un'area frastornata e quindi divisa fra l'astensione e il voto di protesta, ma deve essere in qualche modo ricondotta a una coerenza. Non so se ci riuscirà il PDL così come l'abbiamo conosciuto, che mi sembra un partito che segue la parabola di Berlusconi e in un certo modo ha concluso il suo ciclo storico, però l'area moderata rimane. Esiste. In Rai Italia in controluce, torniamo domani alle 6.30 su Radio 24. Vi ricordo, domani è 9 maggio e sarà una puntata dedicata al giorno della memoria delle stragi e del terrorismo, che appunto è domani su decreto presidenziale, cioè del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.